Radio 24 Reportage. Dentro il terremoto infinito del centro Italia, di Raffaella Calandra. C'è un'arietta tanto buona lungo il mare, quanto è bella. Seduta di fronte al mare di Civitanova Marche, non la sente più la signora Maria, la terra che continua a tremare con nuove ripetute scosse, anche forti, sotto la sua casa, lasciata a Camerino, come sotto le case diroccate di Tolentino, Pieve Turina, Campi, dove vivevano tutti gli altri ospiti di quest'albergo diventato all'improvviso un rifugio per sfollati, come ai tempi della guerra, ricorda il più anziano Alessandro Morelli. Siamo fuori di casa. Da dove arriva? Io vengo da una frazione di Camerino, Ponte Ratrave, un paesino millenario, però e poche case. E qui è praticamente, di fatto in questo albergo, siete tutte persone evacuate, scappate dal terremoto? Sì, qui c'è tutte persone, sono di Camerino, dei paesi vicini, grosso modo sono su tutti della parte alta degli Appennini, ecco. Il focolare è il soggetto più attraente della casa. Di fatto, in qualche modo, adesso vi siete ritrovati qui negli alberghi con i vari concittadini? Qualcuno ci si conosce, poi si fa un po' di amicizia, però in grosso modo ci si conosce per cognome. Nella hall del Miramare, davanti alle televisioni, nel rincorrersi delle ultime ore, cercano immagini che rimandano agli scorci natii abbandonati di fretta, senza una valigia né un saluto. Così come al cronista appena ripartito dall'Appennino chiedono notizie sulla chiesa del paese, descrivono la loro casa, come farebbero di una persona cara di cui si sono perse le tracce. Come se all'improvviso i collegamenti non esistessero più e si cercasse di racimolare ogni indizio. E in un certo senso è davvero così, perché le strade ancora ostruite da pietre e macerie e la terra che continua a tremare allontanano di fatto ancora di più questi alberghi sul mare dai piccoli borghi antichi lasciati sulla montagna. Uno sradicamento che disorienta soprattutto i più anziani. Uno si è tolto la vita nella sua stanza d'albergo e altri vacillano. Non c'è più niente, tutti disperati. Io non faccio più. Deve pensare che io non comunque... sono abituata a stare in un ristorante, a fare una vita in questa maniera. Metto, quando sono venuta non mi capisco più. Non riesco a trovare più niente. Casa mia mi ha finito tutto. Non c'è più vestiti che porto. Me l'hanno prestato, è giusto. Che se possa fare questa vita. Non hanno nessuno una casa loro, quindi chi ti può ospitare? Cioè siete tutti quanti qui? No, tutti qui. Un po' a Tortoreto, un po' chi ha, dove ha? A Numana. Adesso abbiamo bisogno pure di stare tantini in pace, di rassegnarsi, che purtroppo è così. Io qui mi ci trovo bene, e se il Signore ci ha dato un tetto almeno, e da mangiare, è già è tanto, vero? Da dove siete venute? Da Pieve Torina, tutto chiuso. Io ho sentito i terremoti, però, come questo. Da quanti giorni siete qui? Da sabato. Venerdì sera siamo stati nella tenda fino a sabato pomeriggio. Da sabato qui. Alcuni sono sparsi tra gli alberghi e, come ai tempi della guerra, cercano notizie di chi è stato portato casomai in una città poco distante che sembra però irraggiungibile senza auto. Altri invece almeno si sono ritrovati vicini. Più di 1000 sono sfollati a Porto Sant'Elpidio e dal cuore dell'Appennino si è ricostituita davanti al mare di Porto Recanati la comunità di Ussita, il paese dove ora tutte le case sono sbarrate e le strade vuote. Qui solo 10 persone in totale sono rimaste, compreso il sindaco Marco Rinaldi, che fa avanti e indietro tra la gente del suo paese e il paese stesso, dove con le ultime scosse i muri continuano a crollare anche intorno alla chiesa romanica di Santa Maria dell'Assunta. Io sto anch'io venendo a Ussita perché questa stanotte l'ho passata a Porto Recanati, che sono stato qua giù con i concittadini. La situazione è che naturalmente con questa scossa sono caduti altri pezzi, insomma, parti di case che erano peraltro pericolanti, sia chiaro, perché oramai le strutture sono, per dirla in termine tecnico, tutte collassate. Le case sono praticamente al 90% inagibili. Sindaco, quante persone sono rimaste ancora ad Ussita? Ci sono due allevatori e il personale di supporto alle forze dell'ordine. Al massimo sono 10 cittadini. La statale del Chienti è una sorta di via crucis del terremoto. I campanili rimasti in piedi svettano da borghi medievali ora più o meno crollati. Ussita, Camerino, Muccia, e ogni fermata è il racconto di macerie e della nostalgia di quello che si è perso. Davanti al Ponte del Diavolo di Tolentino, ora sbarrato, ritornano paragoni di guerra. C'è i posti chiusi, la via qua è cascata, io parecchie case, capito? Se sbriciolate, se cosate, capito? Là anche le case nuove pure se spaccate tutte, quelle fatte anche dopo l'80. Ci sono state anche quindi parecchie famiglie che sono evacuate, lei le conosce? Sì, sì. E chi gli dice di nuovo, chi c'è una casa in campagna, chi voglio dire. Poi un silenzio cupo in giro che mette più paura, il silenzio che la scossa. Il ponte è stato chiuso. Per l'edicola che è dicono che sia pericolo di crollo, insomma. E nel centro storico però i danni sono significativi. Significativi, infatti c'è metà di evacuazione. E andando più su è devastante, sembra un bombardamento. Praticamente tutto transennato, le vie del centro storico, ci sono mattoni nelle vie, c'è i tetti che sono pericolanti, c'è la gente impaurita perché è naturale che sia così. I negozi sono chiusi, la stragrande maggioranza. Dopo aver sentito quella 6.6, quell'altra. Con rassegnazione, in questo cuore d'Italia si convive ormai con le scosse. Dopo l'ultima botta, seconda per intensità solo al sisma dell'Irpinia dell'80, che ha colpito luoghi simbolo dell'identità stessa del paese. Ha fatto accasciare la Basilica di San Benedetto a Norcia, ha danneggiato pievi e borghi, meta di turisti da ogni parte del mondo, che ora a volte spaventati, a volte quasi divertiti, invece si aggirano tra vicoli medievali e strade transennate. Se delle studentesse sudcoreane, ad esempio, ora vorrebbero solo scappare, una coppia di americani non ci pensa proprio a farsi guastare la sua vacanza. I'm not afraid of no, it was a very calm experience in my opinion. I've tried before. Gli abitanti di Norcia e di altri paesini dell'Appennino pensano che proprio per i turisti, per non aver cioè nel mondo il marchio di paese terremotato, le tende siano state tolte troppo presto dopo il sisma del 24 ottobre. E dopo aver protestato e contestato, le tende sono in parte tornate, perché anche se la terra continua a tremare, il freddo e il maltempo ormai bussano alle porte, la gente da qui proprio non si vuole spostare, piuttosto continua a dormire in auto. Noi l'abbiamo passata in macchina, come tutti penso, la maggior parte. Quindi con l'intenzione di restare qui in zona o di spostarvi? Sicuramente, sì. Non moliamo. Non vi spostate? No, momentaneamente no, anche perché abbiamo tutto qui. E andare via, riniziare da capo con questa Italia. Nonostante però la protezione civile sta invitando ad accogliere l'invito di spostarsi in alberghi, sulla costa, casomai? Ci abbiamo lavoro qui, e si fa fatica, insomma, anche se ci portano magari al lago Trasimeno come hanno fatto. Quindi siamo andati a dormire dentro la macchina per stare tranquilli. E adesso cerchiamo se ci fanno recuperare qualcosa dentro casa. Porto le mutande dei miei cognati, di mia nora, che dentro casa non ci fanno entrare, ma come si fa? Non è che voglio stare lì a abitarci, ma almeno fammi entrare per pia qualcosa. Lui tutto lì, sporco, tutto. Avete bisogno di essere accompagnati? Certo. Io basta che mi danno 10 minuti per incimolare qualcosa, poi me ne vado da mio figlio, dopo sto a posto. Ma voi dove siete stati questa notte? Noi abbiamo una roulotte qua su da mia figlia e siamo tutti là dentro. C'è pure un signore perché ha 92 anni e non si può muovere. Tutta la notte chiama, perché lui è abituato a casa sua. Si trova a disagio dentro la roulotte. Ma voi siete disposti ad allontanarvi? No. Chi si allontana? Andiamo. E qui abbandoniamo tutto. No, ma se eventualmente vi portassero in albergo? No, non c'è spostato. Abbiamo una figlia col bambino domani. Lavoro. Però anche se la terra continua a tremare, preferite comunque restare qua? Sì. Qua stavo, andiamo. L'albergo poi? E qua? E ora aspettano le casette di legno promesse dal premier entro Natale. In questa terra di grande attrazione anche per gourmet, i più determinati a non spostarsi sono allevatori e contadini, come i 13 rimasti a Castelluccio di Norcia, il tetto dell'Umbria, come era chiamato, accasciato ora completamente su se stesso e isolato per frane e allagamenti del fiume Nera. Così, ai piedi del Monte Vettore, laddove la ferita sulla montagna provocata dal terremoto è uno squarcio visibile ad occhio nudo, si cammina su colline di pietra e tegole di tetti crollati, tra prati che richiamavano le folle per lo spettacolo della fioritura. Dobbiamo restare qui per bestiame. Quindi tranne loro che sono arrivati adesso con voi, altri soccorsi non ci sono stati, quindi... Castelluccio, ecco, poi si è disintegrato completamente, prima già stavamo tutti in albergo. Non c'è niente, l'acqua non c'è perché comunque la rete è chiusa. Castelluccio è tutto finito. Distrutte. Quelle che stanno in piedi si tengono perché stanno in piedi, ma dentro sono tutte crepate le case. Castelluccio è finito, non c'è più. È proprio Castelluccio, non c'è più. E oltre al dolore per la perdita delle case e ai disagi per sistemazione di fortuna, sul viso degli orgogliosi abitanti di queste terre legge l'incertezza del futuro, ma non di rado anche l'intima determinazione che, proprio come fu in tempi di guerra, prima o poi i rifugi si lasceranno per tornare nelle proprie case ricostruite. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.